Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata torna in libreria Federico Baccomo, soprannominato Duchesne, con il romanzo Peep Show, una presa in giro tagliente e ironica del mondo della TV e dei reality. Un ragazzino con l'orecchio sul muro ascolta la vita dei vicini. È la trama di Una parete sottile di Enrico Regazzoni. La Peep Show. L'ha scritto Federico Baccomo, soprannominato Duchesne, nome d'arte Duchesne, pubblicato da Marsilio. Abbiamo già parlato di questo autore italiano in altre puntate del Cacciatore di Libri negli anni scorsi, con la sua opera prima, Studio Illegale del 2009, e poi con La gente che sta bene. Ne avevamo anche riparlato perché da entrambi questi libri, Federico Baccomo è un ragazzo, uno scrittore fortunato, sono stati tratti dei film. Il primo, Studio Illegale, con Fabio Volo, e il secondo invece con Claudio Bisio. E la domanda a questo punto, Dio, stavo per dire nasce spontanea ma veramente brutta. Insomma, Federico Baccomo Duchesne, poi spiegheremo questo soprannome, nome d'arte, anche da Peep Show. Ci tirerai fuori un film. Ma paradossalmente... Iniziamo dalla fine, insomma. Ma è giusto, però, dico, paradossalmente è il libro più cinematografico in questo senso, ma quello che secondo me ha meno possibilità di diventare film. Perché nessuno ti ha fatto una proposta? No, in realtà in lettura sembra che sia piaciuto anche a diversi produttori. Il punto è che difficilmente il cinema fa satira su se stesso, sul mondo dello spettacolo, e anche nei film storici, penso, che ne so, un film come Re per una notte di Martin Scorsese, che è uno dei miei preferiti di Scorsese, è il suo film di meno successo, perché quando lo spettacolo parla di sé difficilmente riesce ad arrivare a quel pubblico. Poi ci sono esempi anche contrari, in questo caso mi sembra un pochino più difficile. È perché, lo diciamo, in questo Peep Show si prende molto in giro il mondo della televisione, il mondo dei talent e così via, soprattutto il mondo del Grande Fratello, insomma, perché il protagonista è un ragazzo, come dire, che esce disadattato quasi dalla sua partecipazione al Grande Fratello, nel senso che ne entra già un pochino sbalvolato, adesso sto semplificando e usando dei termini poco letterari naturalmente, e ne esce ancora peggio. Allora parliamo del protagonista, questo Nicola Presci, come te lo sei immaginato? Sì, Nicola è un prodotto di questi programmi che ormai sono già vecchi, il Grande Fratello e tutti quei talent. Io l'ho chiamato talent, ma forse non è neanche un talent. È un reality. È reality, giusto. Però sono programmi che ormai non hanno quasi più nulla da dire e soprattutto sviluppano soprattutto dei copioni, sono diventati quasi delle fiction in sé. E lui è un prodotto di questo vecchio sistema di fare televisione, ormai superato anche appunto dai talent e da nuovi programmi. Si ritrova a gestire le macerie della fama. Quindi ha avuto un attimo di gloria, i famosi 15 minuti, e il libro comincia alla fine di questi 15 minuti. E si tratta di capire se Nicola è in grado di affrontare milioni di minuti che gli rimarranno da vivere, con alle spalle l'illusione forse più grande, quella di essere qualcuno, che è andata a pezzi. E allora dovrà riscoprire i piccoli piaceri, quando si dice banalmente le piccole gioie della vita. Lui quelle piccole gioie non sono più in grado di soddisfarlo, per cui un amore deve conquistarselo, non è più che una donna viene da lui perché è famoso. Un ristorante deve prenotare il suo posto a cena, non è più che se entra gli trovano il posto migliore. Beh, a questo proposito ci sono delle scene esilaranti, insomma, ho sentito parlare anche di Peep Show da altri colleghi, ne ho letto recensioni. Alcuni hanno detto, ah sì, ride da morire. Io devo dire la verità, avevo riso moltissimo con Studio Illegale, poi anche con La gente che sta bene, ma con Peep Show ho sorriso, ma spesso amaramente, perché si ride di queste persone, a iniziare appunto da Nicola Presci. Scena, insomma, lui porta i genitori, li porta a cena in un ristorante e lui pensa di essere riconosciuto. Sì, e lui scopre addirittura di avere la foto sua col braccio sulla spalla del ristoratore, come succede in quasi tutti i ristoranti di un certo stile. E quando la stessa persona che è ritratta in quella foto col braccio appunto sulla spalla non lo riconosce e gli viene fatto presente, guarda che io sono quello lì, mi conosci, lui gli impone della sua conoscenza, quell'altro guarda la foto, lo prende, la stacca dal muro e gliela fa a pezzi davanti al viso. Ed è la conferma che Nicola ha finito, insomma, non è più famoso, ha finito il suo percorso. Lui vive tante piccole illusioni che non sono più sue, per cui è innamorato di una donna che non ci sta. ama un appartamento che non può permettersi e sogna una celebrità che non ha nessun talento per giustificarla. Anche il rapporto con il suo agente, no? Perché lo perseguita di telefonate, ma io dovrei fare questo, dovrei fare... In realtà lui talenti non ne ha. Talenti non ne ha, perché lui è stato famoso semplicemente perché era lì, così come sono stati famosi tante altre persone. E da quell'illusione lì, che è andata in frantumi, deve ricominciare a ritrovare quel principio di esistenza dato appunto dalla vita quotidiana, che poi è quello che succede a tutti quando muore un'illusione. Se hai investito tanto su quella cosa e devi ricominciare, diventa molto dura, anche perché tutti si aspettano che tu sei ancora quella persona lì che aveva quella cosa che ha perso. E quando perdi la cosa più grande, che è la tua stessa identità, che tu invece cercavi di costruire tramite tutte queste piccole cose che non c'entrano niente, come appunto gli autografi, le fotografie, gli articoli, quando perdi tutto questo davvero sei un'ombra. Poi, andando avanti col libro, gli verrà offerta una nuova occasione che bisogna lo trascinerà. Vedere se riuscirà a coglierla o meno, e in che modo riuscirà, esatto, a coglierla. Non ha gli strumenti e i sentimenti per poter affrontare quel tipo di... Infatti è un personaggio, mi è piaciuto molto questo libro, perché all'inizio appunto si vede appunto spaccone, presuntuoso, eccetera. Poi più si va avanti nella storia si capisce che è un ragazzo profondamente fragile, ma certe volte reagisce con la stupidità, la sua fragilità. Se c'è da fare una cosa sbagliata, lui, stiamo sicuri che la fa. Fino alla fine lui sceglie sempre la strada sbagliata. Come quando si ama una donna che sai che è sbagliata, o un uomo. E tutti te lo dicono, guarda che ti schianti se vai con quella persona. E tu dici, lo so, eppure se ti manda il messaggio risponderai sempre. Se ti chiama correrai da lei. Tu lo sai che stai sbagliando, eppure fai sempre quell'errore lì. Lui ha quella cosa lì, ha quell'ossessione per apparire per un certo mondo, per sostanzialmente affermarsi. Sa che sbaglia, tanto che a un certo punto lo dice, mi concedo riflessioni talmente profonde e poi non so andare più al di là di un telefono che non squilla. E questa cosa qui lo sta macerando e piano piano lo trascinerà a fondo. In questo Peep Show si prende anche molto in giro appunto il mondo della televisione. Tu citi personaggi veri, gli attribuisci magari delle caratteristiche o degli episodi ovviamente di fiction, perché a un certo punto Nicola finisce per fare l'autista delle star, no? Dei VIP. E qualcuno si è arrabbiato? Ma ancora VIP citati? No? Io non so se l'hanno letto, questo è il punto. Lì era un gioco molto divertente, secondo me, di capovolgere quella che è l'immagine del VIP, della celebrità, per cui è vero che se tu vedi Benigni, ogni volta Benigni è un entusiasta, la vita è sempre splendida, eccezionale, ogni singola cosa, da una foglia a una lumaca. Poi ti pensi che nel privato magari Benigni andrà contro uno spigolo del letto e gli viene da tirare una maledizione. Ecco, mi piaceva cogliere questi personaggi nel loro andare contro gli spigoli e tirare fuori quel lato disumano, che in realtà poi è umano, che faceva ridere, per cui hai una Rosy Bindi che si dà arie da predatrice sessuale, hai una Pausini assolutamente invidiosa e gelosa del successo, della mannoia nell'intelligenza, e ho un Jovanotti spietato nello scegliere gli argomenti delle sue canzoni. Sono giochi per cercare di liberare quei personaggi lì da una maschera che probabilmente anche dura da portare 24 ore su 24. In Peep Show ho ritrovato sicuramente l'ironia del Federico Baccomo, appunto autore di Studio Illegale, che è stato il tuo primo romanzo, per il quale hai utilizzato appunto il famoso pseudonimo Duchesne, perché era nato tutto da un blog, esatto. Avevi raccontato appunto la vera vita di uno studio legale milanese. Ho ritrovato, dicevo, quell'ironia, però trovo che ci sia qualcosa in più in questo romanzo, appunto perché la storia poi si complica e ha dei risvolti anche drammatici. Sì. Tu come scrittore ti sei sentito cambiato nello scrivere questo Peep Show? Mi sono sentito più padrone di me stesso. Cioè, paradossalmente, Studio Illegale raccontava di un ragazzo che faceva l'avvocato e odiava quella vita. Io ero un ragazzo che faceva l'avvocato e odiava quella vita. Eppure non lo sentivo fino in fondo mio, perché avevo tanti pudori, avevo proprio quella paura di quando ti affaccia la scrittura, nel fatto che chi legge dica, ah, questo è il tuo pensiero, questo è il tuo cuore. In questo caso invece mi sono abbastanza liberato, e forse il primo libro, anzi sicuramente il primo libro in cui il personaggio pensa. Negli altri miei libri non c'era pensiero, c'era molta azione. Azione, scene anche esilaranti, sì. Insomma divertenti, ironiche. Che era comunque un piccolo schermo quello, perché si riesce a far ridere in qualche modo, non è come fanno gli inglesi. Gli inglesi hanno grande ironia, perché sono in realtà molto riservati, per cui la buttano sempre sullo scherzo e tu non riuscirai mai ad andare fino in fondo nella loro anima. E in questo libro si ride tanto, secondo me, come dici tu, nella sono d'accordo. Nella prima parte, esatto. Secondo me, poi seconda e terza parte diventano molto più coinvolgenti, secondo me. E io amo di più, amo proprio di più questa seconda e terza parte. Sono d'accordo, Baccomo, sono perfetto. D'accordo con te. Sì, perché lasci un po' da parte quell'ossessione di far ridere e racconti davvero una storia e un personaggio. È il personaggio che amo di più, perché nella sua fragilità e nella sua miseria, perché è un personaggio che sa essere anche meschino e misero, quel tipo di facilità e miseria mi è piaciuto raccontarla. Ho tirato fuori davvero delle cose che mi sentivo dentro, che in qualche modo fai un po' come faceva il Tan quando diceva: mi vengono in mente delle opinioni che non condivido. Io non sono quel personaggio, ma sento che ogni tanto ho quelle tentazioni lì. La prima volta che ho visto la copertina di questo, l'anteprima della copertina di questo romanzo, invece di leggere Pip Show, avevo letto Bip Show, come se fosse il bip appunto che si mette sopra le parolacce in televisione o in radio. E pensavo, dico, capirò che vuol dire Pip Show leggendo il libro. Giuro, non l'ho capito. Che cos'è il Pip Show? Sono ignorante. No, il Pip Show in effetti non viene spiegato cos'è nel libro, era un gioco mio, perché il Pip Show è uno spettacolo pornografico in cui c'è la caratteristica per cui il cliente guarda senza essere visto, ci sono speciali cabine o altro. E mi sembrava un buon modo di raccontare una certa tendenza che ormai è comune a tutte, che è questo nostro metterci in mostra con una frase su Twitter, una foto su Facebook o Instagram, per cui tu ti metti in mostra e c'è un pubblico invisibile. Alcuni ti mettono like e si palesano, ma ci sono tutto un pubblico invisibile che assiste alla tua vita, allo svolgimento della tua vita. Gli amici dormienti li definisco io, perché esatto. Magari non si fanno sentire, poi li incontri per strada dopo 2 anni, ma a proposito, quella cosa che hai scritto? E spesso non sono solo amici, perché su Twitter può guardarti chiunque. Certo. E a quel punto c'è quel capovolgimento della frase di Andy Warhol, che in futuro tutti saranno famosi per 15 minuti, in realtà in futuro tutti saranno famosi per 15 persone. E Pip Show in questo senso, secondo me, aveva una sua efficacia nel raccontare questa tendenza. Nicola è un esponente di quel mondo lì, uno che è pronto davvero a liberarsi di ogni pudore per essere su quel palco lì. E purtroppo per lui è l'unico che non ci riesce. Grazie allora a Federico Baccomo Duchesne. Ti sei inventato questo soprannome, non mi è mai piaciuto molto, te l'ho sempre detto. Ma nemmeno a me, perché non so come si pronuncia benissimo, quindi... Però secondo me, visto scritto, dà un senso di nobiltà al mio nome. Hai ragione, quindi Federico Baccomo Spazio Duchesne, ora in libreria con Pip Show, pubblicato da Marsilio. Vi ho detto, questo è un libro che mi è piaciuto, mi ha colpito molto, mi ha divertito, mi ha fatto sorridere all'inizio in modo amaro e poi fa riflettere, veramente ne escono fuori dei personaggi mica da ridere, mi verrebbe dire. Grazie Federico Baccomo. Grazie a voi. E da un mondo dove la vita è sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle telecamere, passiamo ad un mondo che in realtà viene solo ascoltato e non visto. Trama di questo romanzo: un ragazzino ascolta la vita dei vicini di casa attraverso la parete della sua camera. I suoni e i rumori che arrivano dall'appartamento accanto gli danno così l'illusione di essere quasi un figlio adottivo di questa famiglia. Fil rouge di questa strana interazione è la musica che arriva da quella casa, le note di un pianoforte che vengono suonate da una donna. Il romanzo si intitola Una parete sottile, l'ha scritto Enrico Regazzoni, pubblicato da Neri Pozza. Regazzoni è un giornalista, insomma, di fama, carriera più che quarantennale, che però ha deciso di scrivere il suo primo romanzo. L'esperienza che questo ragazzino, questo protagonista, vive attraverso questa parete sarà un po', come dire, un processo di crescita, ma guai a chiamare questo romanzo di formazione. L'autore tiene a precisare che non è un romanzo di formazione, ma è un romanzo di liberazione sentimentale, come racconta al microfono di Adriano Palazzolo. Io volevo parlare di un ascolto interiore e quindi dovevo creare una situazione astratta. Ho creato una situazione astratta partendo dalla situazione di una stanza. Kafka dice: non occorre che tu abbandoni la tua stanza, chiuditi nella tua stanza e il mondo verrà a trovarti. E ho pensato a una stanza dove il mondo venisse a trovare il mio protagonista. Dietro a tutto questo c'era evidentemente l'idea che la musica fosse l'interiorità del mondo. E quindi io dovevo far entrare la musica nella stanza del ragazzo. Origliare gli sconosciuti è più uno spiare o anche la voglia di vivere una vita che sia diversa dalla nostra, secondo lei? Origliare a me non è una cosa che interessi un granché, cioè ci tengo a specificarlo, questo ragazzo non origlia nulla, nel senso che non a caso comincia a 3 anni e si abitua a vivere in contiguità Nel senso che lui voglia o no, la musica entra. Lui lo dice nelle prime pagine, non ho alcun interesse a spiare la vita dei miei vicini, è la vita dei miei vicini che viene a trovarmi. E lui sente la vita dei vicini, sente le risa, sente la vita esterna. E questa parete sottile nella mia mente era il diaframma anche che divide la vita solitaria dalla vita collettiva. Però lui non origlia, non c'è un atteggiamento di invidia o di curiosità, c'è una contiguità per cui gli capita di vivere contestualmente due registri, il registro della propria solitudine e quello di una vita partecipata che però non gli appartiene e che emotivamente però lo condiziona. Perché? Perché si entra nella sua stanza soprattutto attraverso la musica del pianoforte. Arrivando quindi alla musica, la madre di questa famiglia, che non è quella del protagonista, è una pianista. Qual è il ruolo della musica nella storia? A un certo punto, durante una cena che è descritta nella seconda metà del romanzo, dei personaggi, una ragazza, dice al protagonista, che è questo ragazzo, di cui non viene fatto il nome, non ha un nome, dice: c'è un filosofo che all'epoca, perché parliamo di molti anni fa, era molto meno conosciuto da adesso, si chiama Friedrich Nietzsche, e sostiene che senza la musica la vita sarebbe uno sbaglio. Questa frase è molto interessante, secondo me, perché indica la musica come, appunto, quell'interiorità del mondo grazie alla quale noi riusciamo ad abbandonare la condizione esterna ed entrare dentro noi stessi. E questa musica è la spinta per indagare dentro se stesso. E ne è, come dire, molto turbato. Questo turbamento però porterà anche ad una trasformazione del protagonista nel corso delle pagine. La sua storia sembra come quella di un romanzo di formazione. Sì, ma non è giusta la parola formazione, cioè ci tengo a sottolinearlo. È un romanzo di liberazione sentimentale. C'è una voglia di rifarsi ai Bildungsroman ottocenteschi, oppure no? Non c'è nessun Bildungsroman dal punto di vista normale, perché lì è la costruzione di un personaggio. Nei Bildungsroman c'è la costruzione, ci sono degli eventi che mettono insieme i tasselli dell'identità del nostro eroe. Qua si tratta di una cosa, secondo me, piuttosto diversa. Qua si tratta di una liberazione, perché questo ragazzo ha una specie di stallo emotivo che rende la musica particolarmente inquietante. Ha un problema e non lo sa. E la musica, ripeto, importata, anzi subita come un'invasione di campo dalla vita degli altri, entra nella sua e lo costringe a fare i conti con se stesso e con un flusso emotivo che lui fino a quel punto non era mai stato in grado di affrontare, perché c'era un problema. Questo è il problema, come dire, è il nodo. Il nodo è il nodo irrisolto che tutti noi abbiamo. Tutti noi ne abbiamo uno, almeno uno, forse molti. La musica, con il suo portato emotivo, ci invita a scioglierla. Quali sono le emozioni che prova il giovane protagonista senza nome quando vive di riflesso la vita di qualcun altro? Beh, lui da un lato prova un'enorme, curiosità, sicuramente, però è anche profondamente sconvolto, perché per esempio, è scritto anche nel risvolto del copertina, la pianista a un certo punto subisce un lutto e gli rovescia addosso fiumi di dolore che per questo ragazzo sono semplicemente incomprensibili. Lui sente il portato di tragedia che c'è in questa espressione musicale, con la quale la pianista cerca di affrontare il proprio dolore, ma allo stesso tempo ne è travolto, ma non la capisce, non riesce a dare un nome, ne partecipa, ma non può condividerla perché non ha apparentemente alcuna ragione di condividere quello stato d'animo, quindi ne è anche fortemente spaventato. In analisi, la paura è l'altra faccia del desiderio. È un crinale molto sottile che ha a che vedere con il grado di inconsapevolezza che noi siamo disposti a immettere dentro l'emozione. Una parete sottile è una parentesi o è un esperimento che porterà ad una carriera di scrittore? Io sto scrivendo il secondo libro e le do un'indiscrezione. I libri sono tre non perché siano connessi in nessun modo, né dai titoli né dalle trame, ma sono tre stati dell'anima. Il secondo libro invece avrà a che vedere con il tema della memoria. Cosa ricordiamo e cosa non ricordiamo? E perché ricordiamo certe cose e ne dimentichiamo delle altre? Noi abbiamo abdicato alla nostra memoria. Questa è la nostra memoria, e indica un iPhone. Nel senso che noi non abbiamo più bisogno di nessuna memoria. La nostra memoria ha una protesi molto precisa. Noi siamo in grado di non usarla. Pensi soltanto, vada a un battesimo, recita di Natale di qualche bambino o a un matrimonio. La gente non guarda, la gente fotografa. La gente memorizza anziché guardare. Cioè abdica la propria memoria, sono tutti lì con un oggetto in mano. Nessuno intende guardare con gli occhi, dunque archiviare nella propria memoria. Non vivono il presente, lo archiviano, appunto perché la memoria è stata delegata ed è diventata un incubo, nel senso che il problema è trattenere tutto. Ricordo una trasmissione, poteva essere il 1970, 71 o 69, insomma in quegli anni là, ancora in bianco e nero, è un dibattito televisivo, dove vari giovani professori discutevano contro il nozionismo e contro l'uso della poesia memoria. In un angolo se ne stava zitto, con la sua faccia tagliente e gli occhi abbassati, Pierpaolo Pasolini, il quale sentì parlare questi contro la memoria, la memorizzazione delle poesie, la memorizzazione dei dati, eccetera, e alla fine, quando la trasmissione stava per finire, aprì bocca e come al solito fu sorprendente e disse: secondo me è uno sbaglio enorme. Le poesie vanno imparate a memoria. La bella poesia deve essere imparata a memoria. Perché solo in questo modo, di sua iniziativa, quando vorrà, tornerà, ci farà visita e restituirà il suo valore poetico a noi in un momento di sua scelta. E questo era Enrico Regazzoni, ora in libreria con Una parete sottile, pubblicato da Neri Pozza, intervistato da Adriano Palazzolo. Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri. Come sempre mi trovate su Twitter come Ale Teddina, su Facebook come Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, puntata naturalmente su podcast a radio24.it. Dall'altra parte del vetro c'è Fabio Cantadori, da Alessandra Tedesco, come sempre, una buona lettura a tutti.